mondo. Friuli nel mondo, Natale ed Epifania in Friuli. 17ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione il senatore Tiziano Tessitori, il complesso orchestrale udinese, Ottavio Valerio, la banda e la popolazione di Vergnacco. Un Natale di fraternità italica, quello trascorso dai nostri emigrati in Argentina. Un Natale preceduto da un congresso, il primo del genere, delle società friulane operose nella Repubblica del Plata, dove vivono non meno di 200.000 friulani. Si è svolto a Rosario di Santa Fe, il 18 e 19 dicembre, in piena estate australe. Indicibile la commozione degli incontri che avevano annullato le distanze. Indicibile la commozione destata dal radiomessaggio del presidente di Friuli nel mondo, senatore Tiziano Tessitori, il quale ha detto, fra l'altro: l'atto che qui oggi si compie assume l'austerità di un rito. Si tratta di stringere in federazione le società che hanno scelto a simbolo il Chavedal, il Fogolar Furlan, di proiettare nel futuro la volontà di crescere insieme, di operare insieme, presente la patria lontana indelebilmente radicata nei cuori e la patria nuova dove fioriscono le vostre famiglie e prosperano le vostre fortune. Un cenno ai vincoli di sangue e di sentimento che legano l'Italia all'Argentina, alla mostra del lavoro friulano che Buenos Aires ospiterà fra qualche mese, poi l'esortazione. Friulani, che l'incontro odierno valga a farvi meglio conoscere, a farci meglio conoscere, creando l'auspicata federazione delle società friulane, cooperando più efficacemente, più autorevolmente alla felicità del paese che vi ospita e al quale auguro ogni fortuna, come la auguro a voi, alle vostre famiglie, che disinglupar furlan e son dutis une famè dal clip, dal fogolar, e lì tuntianton l'ulif de pas e la fanarie culpan che il signor non fa mai mancare a cui tal lavore da urle senti dai pari. L'olive de pass. Basta il richiamo all'ulivo, custodito nel sacrario del focolare, perché in ognuno di voi rivivano le tradizioni del Natale paesano. Rivivano i madins, con la messa di mezzanotte, nella fredda cornice della neve sotto lo stellato, e i fuochi, pignarui, dell'Epifania che additano i re magi la strada di Betlemme. Su in Carnia si può riudire ancora la chanson di Nadal, antica di secoli, che candidamente descrive l'omaggio dei pastori al frutin del presepe. Attenz, Duquan, stai a sentì una canzion che fa stupì. Quand che nasce il nostro signor, essi una stella di gran splendor. Florivin monts e chiams e prats, violi e rosis in quantità. Quattro pastors che stavin attenz a passonai i lor armenz, mentre che stavin a pascolà, si metin insieme a favela. Di ogni pastore era il suo nom, Zanut, Lenard, Macò, Simon. Le loro labbra fluisce la narrazione della straordinaria avventura, la presentazione degli umili doni. Un agnelut, piruz, miruz in tunco su, una cozza di vin e ancia la squeta in talchiadin. L'annunzio della natività è affidato invece nel cividalese ai cantori del Bugul, una pignatta di terracotta non dissimile dalla cacavella napoletana, chiusa con una pelle tesa, in mezzo a cui è infisso un bastoncino che, soffregato con le dita umettate, imita la voce del contrabbasso. Il testo si adagia su un motivo popolare, rielaborato da Jacopo Tomadini. Oggi è nato il Salvatore, Salvatore dell'universo, nelle colpe tutto immerso, causa Adamo il trasgressor. Oggi è nato il Salvatore. Oggi è nato il Salvatore, figlio dell'Eterno Padre, egli nacque da Maria, tutta casta, tutta pia, senza macchia, senza errore. Oggi è nato il Salvatore. Ma ascoltiamo un poeta da poco scomparso, il goriziano Giovanni Lorenzoni, che rievoca il Natale della sua e della nostra infanzia. Mi riguardi anch'io de pastorele che si chiantave vie pegnot serene. Mi riguardi anch'io che lune plene così lave amadins, quand chieri frutti. Pladinis plenis di vincialt culvueli e pan rusti, c'è ben che mal riguardi, rusti sul nadalut, col veve di ardi dute la gnot, c'è biel nadal. Passi niains, passe la poesia di quei viei dis, e altri non usreste che la memoria di che chiare fieste. O c'è tant ains che non le plui nadal. Il Natale in Friuli è sinonimo di focolare. Ritornano al tepore del ceppo, nadaluto o nadalin, gli emigranti stagionali per fermarsi in famiglia fino alla primavera. E proprio il giorno che segue Natale, il 26 dicembre, cade la loro festa,